Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Lo chiamavano il portiere pittore, perché le sue mani non furono solo straordinariamente abili e veloci nel respingere i palloni calciati verso la sua porta dagli attaccanti avversari. Sì, quelle stesse mani, infatti, guidate da un animo sensibile e da un occhio attento a ogni minima variazione di colore e luce, ne fecero un significativo esponente della scuola pittorica romana. Ma Ezio Sclavi, questo è il campione di cui oggi vogliamo raccontarvi la storia, fu portiere, anzi calciatore, certo, tra gli anni 20 e 30 del Novecento. Poi pittore pure, sicuramente, ma anche molto altro. Un personaggio poliedrico, eclettico ed ambivalente che oggi andiamo a riscoprire grazie all'aiuto di quello che di fatto è il suo biografo, grazie al libro Ezio Sclavi, portiere e pittore, edito da Eraclea. Fabio Bellisario, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie. Personaggio straordinario Sclavi, quasi picaresco, direi, vero Fabio? Se è vero che ogni portiere ha un pizzico di follia nelle vene, beh, in lui la vena artistica è esaltata fino a farne un vero e proprio pittore. È un personaggio versatile, poliedrico in ogni aspetto della sua vita. Ha avuto una vita sicuramente in cui lo sport ha avuto un'importanza fondamentale, ma non è stato soltanto quello. Appassionatosi di arte, ha deciso che doveva imparare a dipingere, come ogni cosa che ha intrapreso l'ha fatta con estrema serietà e con una coerenza estrema. Lui ragazzo, figlio di agricoltori, ma forse anche meno di agricoltori, proprio di coltivatori della terra di livello più basso, ha saputo, come dire, esaltarsi in certe attività che hanno avuto poi un riscontro per tutta la sua vita. Fra poco parleremo dello Sclavi artista, ma cominciamo a narrare gli inizi dell'uomo di sport Sclavi. Innanzitutto lui intraprende lo sport a Stradella, lui è di quei dolci posti dell'Oltrepò che secondo me hanno influenzato il suo carattere, l'aspetto dolce e armonico della visione della vita di Sclavi secondo me è stato assecondato da quei meravigliosi posti che sono nell'Oltrepò pavese. Lui comincia a lavorare come muratore, però alternava il lavoro di muratore praticando l'atletica leggera nella sua Stradella, questo paese dell'Oltrepò che aveva delle strutture per poter praticare dello sport, ma mancava sia di costanza inizialmente questo, sia di un vero amore per l'agonismo. Faceva sport quasi per scaricare un qualcosa che era in lui, qualcosa che lui più tardi chiamerà un demone che mi ha sempre contraddistinto. Col trasferimento a Roma per il servizio militare, ecco arrivare anche lo sbocciare della passione per il football e il colpo di fulmine con la Lazio, il club cui legherà le pagine più belle della sua carriera. Lui cercò di entrare in qualsiasi squadra romana, veramente, ma nessuno diede ascolto alle sue richieste, anche pressanti direi, di poter far parte di una squadra di calcio. E finché fu ascoltato dalla Lazio, un dirigente della Lazio, Palmieri, intuì le doti di questo ragazzo, molto disordinato, molto approssimativo nel ruolo di portiere, però dall'agilità leggendaria, da uno stacco, una forza nelle gambe assolutamente fuori del comune, perché non bisogna dimenticare che Sclavi era alto 1,67 m, oggi non potrebbe fare il portiere, però dotato di tanta di quella forza sulle gambe che gli permettevano di arrivare a parare palloni praticamente impossibili. Le sue peculiari caratteristiche fisiche gli valsero poi un soprannome davvero particolare da parte dei compagni, vero? Lo definivano scimmia, anche per suo aspetto fisico, cioè braccia estremamente lunghe e poi un viso marcato che sembrava tagliato con l'accetta, no? Che così gli davano un aspetto effettivamente, basta guardare le foto, un po' scimmiesco. I compagni di squadra lo chiamavano la scimmia, infatti. A un certo punto, però, Alla porta di Sclavi bussa la Juventus e il rapporto col club biancoceleste entra in crisi. La Lazio viveva ancora in un periodo in cui il dilettantismo sportivo vigeva, almeno qui a Roma e soprattutto nella Lazio, grazie alla visione sportiva che aveva il presidente della Lazio, che era Fortunato Ballerini, illustre uomo di sport. E quando finì il servizio militare, Sclavi si trovò a non potersi più mantenere e chiese un piccolo sostegno alla Lazio. Questo sostegno in fondo era minimo, perché voleva soltanto un sottoscala dove dormire e la colazione la mattina, ma neanche questo gli fu dato. Arrivò immediatamente una richiesta della Juventus che regalava un contratto abbastanza ricco a Sclavi, e lui, pur con molto dispiacere perché già era legatissimo a Roma, andò a Torino. A Torino non giocò mai perché era chiuso da quel formidabile portiere della Juventus che era Combi, però riuscì a fare una partita, e neanche nel suo ruolo, perché giocò centromediano. Incredibile Ezio Sclavi, portiere, pittore e centrocampista, anzi centromediano come si diceva ai tempi, e anche dai piedi buoni, vero Fabio? Come dimostrò in una gara entrata già nella leggenda. Fu una partita a Reggio Emilia in cui si mise al centro della difesa, e siccome, ripeto, era dotato innanzitutto di una grande intelligenza tattica e poi forse del colpo d'occhio del portiere, e si registra in quella partita una superba prova di Sclavi. Questo almeno quanto dicono le scarne cronache del periodo. Ma l'amore per la Lazio era più forte di tutto, come dimostra l'episodio del mancato rinnovo di contratto con i bianconeri. Viene convocato dal presidente della Juventus, Agnelli, uno dei tanti Agnelli che si sono avvicendati nella Juventus, il quale, apprezzando l'umiltà di questo atleta che in fondo aveva giocato così poche partite nella Juventus, e gli propone un rinnovo del contratto che era esattamente il doppio dal punto di vista economico di quello dell'anno precedente, ma lui lì nella sala presidenziale della sede juventina rifiuta, e si racconta che Agnelli, gentiluomo com'era, non perde altre tempo con lui, capisce che era un desiderio genuino e gli permette di tornare a Roma. Breve permanenza quindi, ma non vana quella a Torino, tanto che la Juventus, se non sbaglio, rivorrà Sclavi in un'occasione davvero speciale. Nel 32-33 la Juventus lo chiamò per giocare la finale di Coppa Europa, perché Combi si era infortunato. A quel tempo era possibile chiedere in prestito un giocatore anche per una sola partita. La Juventus, guarda caso, chiese alla Lazio Sclavi, e Sclavi andò a giocare. È vero che la Juventus perse quella finale con una squadra ungherese, ma la stampa fu concorda nel dire che il migliore in campo fu Sclavi. Tanto che la Juventus, per ringraziarlo, tra l'altro parò anche un rigore, per ringraziarlo donò a Sclavi una spilla con delle piccole pietre preziose bianche e azzurre, che lui portò sempre sul bavero dei suoi vestiti. Ancor più epiche però, bisogna ammetterlo, le imprese in maglia biancoceleste, che ancora oggi fanno di Ezio Sclavi un mito della tifoseria laziale. Rimane epica appunto la sfida con l'Alessandria, che Sclavi affronta con una tenuta che, mi viene da dire, lo rende più simile a un milite della Grande Guerra che a un portiere di calcio. Ad Alessandria rimane infortunato gravemente al volto in uscita, prese un calcio da un avversario, che questa ferita addirittura necessitò di 12 punti messi sul campo dal medico della Lazio, il professor Bani, ma un minuto dopo questo episodio un altro calcio in faccia, sempre in uscita, gli causò un'altra ferita curata con 10 punti, quindi lui ebbe 22 punti sul campo e non volle uscire. In sostanza era fasciato tipo mummia. Eppure anche questo amore intensissimo per la Lazio finirà, e certo non per volere del nostro portiere pittore. Manco a dirlo, la mala sorte ci mise lo zampino. Siamo appunto nel 34, quindi in un momento più evoluto rispetto agli esordi di 11 anni prima di Sclavi nella Lazio. Ormai anche la Lazio era una squadra professionista. L'infortunio subito da Sclavi durante una partita era piuttosto serio, oggi farebbe ridere perché si tratta di menisco, ma a quel tempo gli interventi al menisco erano quasi sperimentali. Ciononostante, andando due volte sotto i ferri, lui riuscì a guarire, però la Lazio, temendo che Sclavi non potesse ritornare quel grande portiere che era stato, aveva comprato il triestino Blason per ben 150.000 lire, e quando Sclavi, guarito, tornò alla Lazio per dire bene, io sono pronto a tornare in campo, gli fu detto che non c'era più posto per lui. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, è questa vita mia, è tutto quel che ho, più breve lei sarà e più forte canterò. Sembra incredibile, ma la rottura di questo sodalizio emotivo, sentimentale, prima ancora che calcistico con la Lazio, provoca nella vita di Ezio Sclavi un'altra svolta inattesa e sorprendente. Allora Fabio Bellisario, prendiamoci qualche istante di pausa, poi ancora insieme a Olimpia per raccontare la vita di Ezio Sclavi, il portiere pittore. Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora insieme a Olimpia per ripercorrere la vita straordinaria e sorprendente di Ezio Sclavi, il portiere pittore protagonista del calcio italiano tra gli anni 20 e 30 del Novecento, con le maglie della Lazio soprattutto e della Juventus, ma anche con quella della Nazionale Azzurra, come ben ricostruisce Fabio Bellisario nel suo volume Ezio Sclavi, portiere pittore. Ecco Fabio, Sclavi visse in azzurro appunto una parentesi breve ma intensa, mi viene da dire. Beh, fu un'avventura per un calciatore romano positiva, in questo senso. Lui fu il primo portiere di una squadra di Roma che fu convocato in nazionale, come Bernardini fu il primo giocatore di una squadra di Roma convocato in nazionale, e quindi Ezio Sclavi già acquisisce, diciamo, questo titolo, primo portiere di una squadra centro-meridionale convocato in nazionale. C'è da dire che lì lui aveva come competitor appunto Combi. Combi non solo era un eccezionale portiere, ma era anche amico del commissario tecnico Pozzo. E poi c'era questa una certa idiosincrasia di Pozzo verso i giocatori del meridione, no? E quindi è chiaro che tutte le partite le fece Combi, eccetto quattro partite, in cui Sclavi si dimostrò ottimo portiere, tanto che nel 34, l'ultimo anno di permanenza di Sclavi nella Lazio, prima dell'infortunio che poi decise la sua carriera, in sostanza i giornali e i critici più autorevoli ormai affermavano tranquillamente che Sclavi era più forte di Combi, e anche Pozzo confessò che ai mondiali del 34 probabilmente avrebbe fatto giocare Sclavi in porta. Pozzo incita gli azzurri ed anche la folla grida il suo appassionato incitamento ai nostri giocatori. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi Puccia al 26esimo della ripresa, pareggio di Orsi al 36esimo. Saranno altri quindi gli azzurri a conquistare la Coppa del Mondo del 1934 nella finale di Roma. Puccia non arriva in tempo sul pallone, intercetta Montegno, palla avanti a Meazza, ecco Meazza scattare, supera la metà campo, avanza ancora, tira verso Guaita, spuntato al centro, scattano Snala, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli va incontro a Sirchi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro rete. Proprio a Roma, sì, dove Sclavi, uomo dell'Oltrepò, aveva messo radici e intessuto rapporti, non sempre cordiali, a dire il vero, giusto Fabio? Come quella volta, ricordo, che sfidò un giornalista a duello, e che duello! Sì, un po' tragicomico, così, però vero, nel senso che lui era già stato convocato nella nazionale, quindi stiamo parlando 1929-1930, convocato in nazionale, anche se portiere di una Lazio che quell'anno non andò particolarmente bene, e dopo una partita giocata con il Milan, lui la sera andò a Piazza Colonna per leggere i risultati delle altre partite fuori di un bar, e aveva letto su un giornale poco prima che un certo giornalista aveva criticato la scelta di Pozzo di convocarlo in nazionale e faceva un elenco di tutti gli errori commessi da Sclavi in quel campionato. Questo aveva colpito negativamente ovviamente il permalosissimo Ezio Sclavi, e lui era convinto che questo giornalista, perché l'articolo non era firmato, fosse Eugenio Danese. Convinto di questo e girandosi e vedendo Eugenio Danese fra quella piccola folla che leggeva i risultati, andò davanti a lui e gli diede uno schiaffo, un sonoro schiaffo sul viso. Danese, perfetto gentiluomo, capì che quello era motivo per poter mandare un biglietto di sfida, lo fece pervenire alla Lazio. E il presidente della Lazio di allora, Vaccaro, convocò Sclavi e gli disse di aver accettato per conto suo la sfida di Danese. Come andò a finire quella singolar tensione? Danese, bisogna considerare che era un ottimo schermidore, oltre che un ottimo tennista, e Sclavi non aveva mai preso in mano un'arma. Quindi in un solo pomeriggio, perché la sfida era fissata per il giorno dopo in una villa di Grotta Rossa qui vicino, lui prese lezioni da un schermitore della Lazio, il famoso maestro Vito Resse. Cominciò questo duello con uno Sclavi terrorizzato e a subito Danese attaccò. Lui si rannicchiò in posizione difensiva e la sua fortuna fu che la punta della sua spada fece una minima ferita su una mano di Danese, e siccome il duello era il primo sangue, ai padrini non parve vero di interrompere questo duello, e da quel momento i due furono grandissimi amici. Accetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Uomo calmo e tranquillo, Ezio Sclavi, ma al tempo stesso sanguigno, capace di passioni improvvise. Basti pensare che il traumatico addio dalla Lazio lo spinse addirittura nelle colonie d'Africa. Improvvisamente parte, bisogna tener conto che nel frattempo lui aveva cominciato a dipingere, quindi già dal 31 aveva cominciato a dipingere. Diciamo che nel 34 lui era già un pittore di chiara fama. Aveva esposto a Parigi addirittura, in una galleria prestigiosa di Parigi, dove era stato magnificato da certi critici, da severi critici francesi, come un buon pittore della scuola romana. Quindi lui era un pittore ormai avviato verso quella carriera artistica, ma lasciò tutto improvvisamente, forse nel giro di una settimana, e partì volontario per l'Etiopia. Nel 1936 cominciava la campagna d'Etiopia e lui partì. E fece un anno da volontario, ma in un ruolo non bellico, diciamo, ma di sussistenza, perché era un motociclista militare che faceva da staffetta fra Addis Abeba e le postazioni italiane nel territorio. non ha mai partecipato, e lui lo conferma in un suo scritto, non ha mai partecipato a nessun scontro militare cruento, ecco. Nella valigia per l'Africa, Sclavi si porterà comunque la passione per il calcio. Diciamo, lui divenne allenatore e giocatore di squadre fatte soprattutto da italiani che gli si erano trasferiti. Lui ritrovò lì addirittura dei compagni della Lazio, anche se avevano giocato in squadre giovanili della Lazio, fece venire in Etiopia suo fratello Amleto, fratello minore, anche lui calciatore, e istituì dei campionati. Aveva grande energia e grandi capacità organizzative, e lui vinse per 3 anni di seguito il campionato dell'Africa orientale, facendo sia il calciatore che l'allenatore, ma mai giocando in porta, giocando sempre in vari ruoli, ma mai in quello di portiere. Permanenza africana che poi la seconda guerra mondiale prolungherà forzatamente, viene da dire, giusto Fabio? Lui la ferma la fece di un anno. Nel 1938 rimase ad Addis Abeba, impiantò una piccola fabbrica in cui si smerciavano prodotti dell'edilizia, faceva anche trasporto con dei vecchi camion militari comprati da lui, ma ormai in disuso e rimessi a posto, e insomma ebbe successo dal punto di vista economico. Era diventato uno di quegli italiani che si erano stabiliti ad Addis Abeba, che erano riusciti, grazie alla guerra che c'era stata, a impiantare un qualcosa che era retributivo dal punto di vista economico. Poi scoppiò la guerra, la seconda guerra mondiale, e nel 1941 Addis Abeba cadde nelle mani inglesi e lui fu fatto prigioniero, e questa prigionia trascorsa in Tanganyika durò fino al 1947, quindi dal 41 al 47. Ezio Sclavi morirà a Taggia il 31 agosto 1968. Ecco, a distanza di tanti anni, Fabio, sopravvive più il ricordo del calciatore o dell'artista? Probabilmente devo dire il calciatore, perché quando si parla di Sclavi come artista, come pittore, si aggiunge sempre che giocava in porta. E quindi, diciamo, questo spiega che forse la sua... il suo ruolo di sportivo è più importante di quello che fu quello di pittore, però anche lì c'è una spiegazione. In sostanza Sclavi comincia a far pittura e divenne uno dei maggiori rappresentanti della scuola romana, cioè la scuola quella di Cagli, di Capogrossi, di Cavalli ed altri personaggi, Scipioni, no? E altri personaggi notissimi della pittura italiana della prima metà del Novecento. Lui faceva parte tranquillamente, era considerato un ottimo pittore, ma appunto poi partì. In sostanza lui dal 1936 fino al 1947 ha abbandonato il mondo della pittura e in Italia non c'è stato. E lui perse praticamente ogni contatto con l'ambiente romano, soltanto negli anni 60 ricominciò a frequentare gallerie e a parlare con critici, e a farsi riconoscere, però purtroppo nel 68 è mancato e quindi non ha avuto tempo di farsi riapprezzare per quello che era. Fabio Bellisario, grazie per aver rivissuto la parabola di Ezio Sclavi, il portiere pittore, qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.